In piedi, entro Giudice e Franco Lo Sardo. Buonasera, comodi, comodi. Eccoci con la causa numero 589-2011. Prego la difesa di prendere la parola. Cosa? Signor Giudice, signori della Corte, gente del pubblico, siamo qui riuniti per qualcosa di inconcepibile e mi rimane da dire solo una cosa: innocente! Ma, avvocato, le volevo ricordare che il suo cliente è accusato di aver ucciso Biagio Antonacci e di averlo sciolto nella mistura con cui si congimano gli uliveti. Ma io mi la pregherei, come osa definire innocente questo elemento? Innanzitutto definirei che con quel congime ci hanno fatto anche gli vigneti. E signor Giudice, ma le pare possibile che il mio cliente, analfabeta, puzzolente, rozzo, abbia potuto uccidere Biagio Antonacci? Il nostro cliente si è non rimasto a tono dall'aria, a Peppino de Capri, a Mal de Prevetera. Beh, allora accusiamo anche del Big Bang, dell'alluvione degli ultimi giorni, della presenza di Zibi Boni al 90° minuto, della separazione tra George Clooney e Elisabetta. Avvocato, lei si sta tradendo. Ricorda il video di Convivendo? In questo caso, mio malgrado, culpa vatis, verba e malum e abbondantis abbondanzieri, ho pestato una cacca e l'ho fatto anche con le scarpe a caso armato. Ma se condanniamo questo rozzo, e dire di questi che abbandonano i cinesi flambè in autostrada, di questi che attaccano le caccole sotto al divano, di questi che rubano i format e i loghi alle piccole web radio locali, applauso! Famoso ignumbumato, o di questi che guardano tutto il giorno Iris sul digitale terrestre. Avvocato, oggi mi stupisce, sta compiendo un'analisi ancora peggiore delle altre. E per caso è colpa mia se Biagio Antonacci chiama le canzoni Ara Meglia Meglia? Ma su questo devo ammettere che non ha tutti i torti. Giudice, ma chi siamo noi? E dico, chi siamo noi? Io, tu, lui, mamma e Socrates, per condannare questo. Come si permette a citare i miei parenti? Vabbè, si fa per dire, noi nel senso di noi nuarum, abbundantis abbundanziere. Oggi bene, sono così. Continui pure con il suo latinorum. Vabbè, sono reminiscenze giovanili. Lasciamo stare. Ma chi siamo noi dunque per condannare questo rozzo? Chi siamo noi per dire chi è Giovanni e chi è Nicola? Chi siamo noi se per dire che è il tempo di raccogliere le margherite e i margheritoni? Chi siamo noi per ordinare la pizza calda alle 6 del pomeriggio e tu ti devi mangiare quella cruda? Ma soprattutto chi siamo noi per non citare il caseificio Roberti e anche in quest'aula di tribunale? Beh, almeno questo è fatto bene a ricordarsi. E certo, perché ricordiamolo che è in offerta al Carrefour a 5,90€. Ma Giudice, ma se oralmente il film La guerra dei Roses 5,90€, sì. La guerra dei Roses, la storia di questi coniugi che dovevano divorziare e si sono ammazzati a mala morte a vicenda, ecco, dimenticatelo, perché ho sbagliato sempre. Volevo dire Basilicata Coast to Coast, dove Max Gazzè faceva la parte del mutuo, ma mi è venuto in mente solo il film con Danny DeVito e Michelozzo Douglas. Per cui, giunto al dunque, sì, grazie, chiediamo assoluzione piena per il mio cliente e faccia presto, perché ho lasciato la macchina in seconda fila. Bombazza! Bombazza! Caccia bricicletta dall'aula! Visti gli articoli 7382 e 43278, questo tribunale condanna il suo cliente all'ergastolo e lei per multa in divieto di sosta. Ma come all'ergastolo? Cioè, scusate, ma oggi mi avete dato un cliente che sembra un cricchione di primo piano. Preferivo perli coro. Comunque zitto, zitto cliente, che ti è andata benissimo. Non lo sanno che Biagio Antonacci hai fregato anche la maglia dei nazionali cantanti e io vado a prendere la seconda fila. La seconda musta, la seconda fila, insomma. Giudice, stammi bene. La seduta è tolta. Ma guarda che avvocati che mi capito. Sei più bello tutto.